24 mattino. Buongiorno, non sono Alessandro Milan, sono Giulia Crivelli, bentrovati. È stata un po' una sostituzione dell'ultimo momento. Alessandro ha avuto un imprevisto veramente imprevedibile e tornerà insomma il più presto possibile. Io spero di sostituirlo degnamente. Teniamo più o meno la stessa struttura, come se ci fosse Alessandro, quindi la prima parte la dedichiamo al Parlamento e i nostri ospiti di oggi sono Flavia Perino e Vincino, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene e di 24 Mattino in particolare. Io non ho mai avuto il piacere di sentirli direttamente, quindi per me sarà tutto un po' una sorpresa. Iniziamo però, perché il fatto del giorno è di ieri, dell'altro ieri e probabilmente anche di domani, è quello che sta succedendo a Roma. Quando poi dopo il GR delle 7 vedremo i titoli dei giornali, vedremo che poi è proprio l'apertura praticamente unanime dei giornali di oggi, perché questa vicenda della giunta di Roma che si sta sfaldando o che comunque cerca faticosamente di rimettersi insieme viene considerato da tutti il banco di prova dei grillini. Sentiamo subito allora proprio quello che ha detto ieri Virginia Raggi in commissione Ecomafie su questo famoso fascicolo da cui poi è venuta fuori la notizia che l'assessore Muraro ha questo avviso di garanzia. Non soltanto esiste questo avviso di garanzia, ma lei ne era a conoscenza. Io sono venuta a conoscenza dell'esistenza di un fascicolo a suo nome verso la fine del mese di luglio e tuttavia siamo in attesa di conoscere, proprio di leggere le carte, di conoscere quali sia l'oggetto di questa indagine. Come tutti sapete, al momento c'è semplicemente questo fascicolo aperto a suo nome e non si sa ancora nulla. Non c'è articolo 256,4. Sì, ma è molto generico, non c'è ancora il codice ambientale, poi è un delitto, non è un delitto, è una contravvenzione. Abbiamo fatto questo no, per chiarimento, sennò sì, no, no, è vero, però si tratta comunque di una contestazione generica. Eccoci, queste erano le parole di Virginia Raggi e sul Corriere c'è questa precisazione, perché sta tutto qui, la definizione di avviso di garanzia. L'articolo 335 del Codice Penale stabilisce che se una persona è indagata viene a saperlo quando il pubblico ministero ritiene di inviarle questa informazione di garanzia. Quindi è vero, è possibile che una persona indagata non abbia ricevuto l'avviso di garanzia, però lo può chiedere. Una persona che sospetta di essere indagata può chiedere, a quel punto il pubblico ministero è obbligato a dirle sì, in effetti esiste questa informazione / avviso di garanzia, ed è esattamente quello che era successo a Paola Muraro, che poi aveva parlato con Virginia Raggi. E proprio su questo direi di fare la prima domanda a Flavia Perina, che è direttore della DN Cronos ma ha anche un passato da parlamentare. Una sua prima opinione su quello che sta succedendo. Ne abbiamo sentite tante, però ha sempre vissuto a Roma, conosce bene la politica romana, avrebbe probabilmente, così era stato annunciato, anche fatto parte del team di comunicazione dello sfidante di Virginia Raggi, che era Giachetti come sindaco di Roma, quindi sicuramente è un'opinione di peso, e perciò appunto volevo intanto darle il buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno. E poi chiederle appunto una prima impressione. Ci si aspettava una partenza incerta sicuramente dal Movimento 5 Stelle, che non aveva mai governato cose così grandi come Roma, ma questo devo dire probabilmente non se lo aspettava nessuno. Qua tutto si gioca intorno al fatto se Virginia Raggi e il suo assessore Muraro abbiano mentito oppure no, e questa idea della menzogna si gioca intorno a un cavillo, cioè il fatto che non è proprio un avviso di garanzia, non era stato ricevuto, era una comunicazione, e quindi c'era, secondo il 5 Stelle, un buon diritto di rispondere ai giornalisti, no, l'avviso di garanzia non l'ho mai avuto. Ma scansando questi dettagli, che poi si trovano sui giornali, ce ne stanno tanti, qua insomma è una partenza a dir poco deludente per i moltissimi romani che hanno votato questa questo sindaco e questo movimento, sperando che facessero del comune una casa di vetro, perché poi l'aspettativa dei romani era questo: spassiamo via tutte le vecchie filiere politiche che hanno impicciato qua a Roma, che la metà basta, e mettiamoci qualcuno che insomma almeno per i primi anni farà della trasparenza la sua massima parola d'ordine. Questa io credo che sia il punto centrale. E su questa parola trasparenza, scusa, dell'elettorato, sì, Flavia, certo, volevo proprio farti sentire le parole di Virginia Raggi in campagna elettorale, quando un altro tema molto caldo che riguardava il Movimento 5 Stelle era la vicenda Pizzarotti, sindaco di Parma, accusato di non aver avvertito i vertici che aveva ricevuto a sua volta un avviso di garanzia. E così parlava Virginia Raggi appunto in campagna elettorale quando correva per diventare sindaco di Roma, e che poi lo è diventata con una percentuale superiore al 60%, quindi, come dicevi tu, una percentuale importante di elettori che hanno creduto in lei. Ma sentiamo appunto Virginia Raggi. Pizzarotti, c'è un fatto che è quello anche qui della trasparenza. È stato pubblicato un comunicato sul blog che spiega molto bene questa vicenda. Il punto è proprio il fatto che l'avviso di garanzia era noto da molto tempo a Pizzarotti e lui ha pensato comunque di nasconderlo. Quindi questo è. Quindi lei condivide il provvedimento? Avrebbe dovuto renderlo noto soprattutto ai suoi concittadini e a tutti quanti. La trasparenza è importante. E va bene, quindi la trasparenza è importante. Tra l'altro, dicevamo, i palazzi trasparenti, c'è chi addirittura, penso al Parlamento tedesco, il Reichstag, ha deciso di, quando è stato ricostruito, di costruire proprio un palazzo di vetro per avere una manifestazione proprio palese che la trasparenza è un valore. Ecco, c'è quindi il problema della bugia, come dicevi all'inizio, Flavia, ma che anche questo problema di incoerenza, cioè più o meno due mesi fa dichiarava questo e adesso c'è una bella piroetta. Il mondo dei grillini, no, come altri mondi, perché non è che al PD o all'area del centrodestra sono successe cose differenti, finisce per impiccarsi alle stesse parole, perché quando tu prometti cose esagerate, cose che in politica la trasparenza al 100% è molto difficile che esista, alla fine ti si impicchi, ma è successo ad altri. Succede a loro per una vicenda che normalmente se si trattasse di altri probabilmente sarebbe trattata come una vicenda minore. Noi abbiamo visto personaggi della politica indagati, talvolta addirittura arrestati per fatti assai peggiori che un abuso d'ufficio, e però quando hai promesso tantissimo alla fine crei un effetto di delusione enorme, che sommato agli altri guai di questa giunta è ovvio che disilluda i romani in un tempo molto breve. Alla fine sono passati solo 3 mesi dalle elezioni, siamo appena tornati alle vacanze. Direi una partenza veramente bruciante. Vorrei coinvolgere Vincino perché forse io non pretendo che voi abbiate già visto le prime pagine dei giornali, però un po' ovviamente volevamo chiedergli la sua opinione, che in parte ha già dato, sulla famigerata vignetta di Charlie Hebdo sul sisma, ma oggi il Fatto Quotidiano ne fa una parodia, sempre firmata da, non sempre, ma fatta da Vauro, quindi un collega di Vincino, potremmo dire. Sì. Il titolo è Raggi Hebdo, e al posto della sindaca alla griglia della vignetta di Charlie Hebdo c'è Mère Grillet, cioè al posto, scusate, c'è la Mère Grillet, la sindaca alla griglia, poi l'assessore gratinato, e al posto delle lasagne, che erano il modo insomma in cui Charlie Hebdo ha deciso di rappresentare le macerie sotto cui c'erano i corpi, c'è questa massa di topi con le loro code, e c'è scritto code alla vaccinara, e il titolo è appunto il sisma alla romana anziché il sisma all'italiana. Non so, io non mi ha strappato neppure un sorriso questa cosa, però insomma, poi leggere una vignetta è sempre difficilissimo, e quindi magari non so se Vincino, io ho visto che anche lui sul Foglio di oggi ha fatto una vignetta a tema diciamo terremoto, quindi magari è lo spunto giusto per chiedergli di ribadire insomma la sua posizione su questa opportunità di fare satira sul terremoto, e se si può fare basta, oppure se una volta che si è fatta bisogna distinguere tra la satira che fa veramente ridere e quella che non fa ridere per nulla, che poi è tutta una questione personale. Allora, naturalmente il mio lavoro sino a la settimana scorsa, qualche giorno fa, era un lavoro bellissimo, no? ed era proprio bello, insomma. Da una settimana ho la sensazione che sia il lavoro più odiato del mondo. Io ho avuto la sensazione, parlando con amici miei, per le cose, ma il 90%, cioè, io l'avrei ammazzato, mangerei, scannerei, cose terribili, no, nei confronti degli autori di quel disegno là di Charlie Bildo. E allora quindi ho fatto come San Pietro, ho negato tutto di conoscere, no, assolutamente non. È proprio, è cambiato il senso in pochissimi giorni. Poi naturalmente di quella di Paolo non riesco a parlare, perché una vignetta, se non la vedo davanti, certo, non la riesco a, è come dire, non si può assaggiare un cibo senza assaggiarlo, senza sentire il sapore. Il disegno è fondamentale, l'emozione. E poi una precisazione: quella non è la posizione di Charlie Bildo, quella non era la copertina di Charlie Bildo, quella è una vignetta a pagina 23, anzi era la copertina rifiutata. Ecco qua, era una proprio delle 100 vignette, poi naturalmente è lo stesso discorso che è successo con le vignette danesi. Escono una pagina di vignette danesi nel 2006 su un piccolo giornale danese. 6 mesi dopo un imam del Libano le prende e le dice: ecco cosa pensano i danesi di Allah, di cosa, manifestazioni in piazza, manifestazioni, scontri, morti in Libano, in Egitto. 6 mesi dopo, in Libia, no, cioè vengono presi come pretesto. Questo ti dice anche un'altra cosa: la forza enorme che ha la vignetta, il disegno, l'emozione che un disegno, una vignetta può dare. Ecco, si è detto magari, poi dicevi, era un lavoro bellissimo, perché soprattutto magari prendendo di mira i politici nostri, sanno essere particolarmente comici, perché è una ricerca di verità anche enorme, con uno strumento meraviglioso, no? Però oggi è il lavoro più odiato in Italia da tutti, e quindi non esco di casa, sto buono. travesto, certo, come dire, poi mi fai parlare pure della sindaca. No, certo, anzi, perché... Cioè, un movimento più oscuro dei 5 Stelle, dei quali non si sa qual è il processo decisionale all'interno. Ma gli stessi, cioè Di Battista e Di Maio, hanno il terrore di parlare perché dicono una cosa sbagliata. Grillo, Faf, gli leva il simbolo e loro non sono più nulla, no? Cioè, il movimento più oscuro della storia d'Italia è questo qua. Poi naturalmente sono particolarmente imbecilli, perché come dire, invece di mettersi là in 30 grillini là tranquilli, cioè se è riuscito pure Tronca, uno del Ministero degli Interni, a governare Roma per un anno, ma possono riuscirsi anche loro senza... E invece no, si mettono a cercare il giudice importante, quell'altro a cui danno 200.000 euro. Ecco. Ma che questo lo può fare Marino, Alemando, lo può fare da qualunque. Voi no, voi dovete mettere là ragazzotti come siete e via, tranquilli, no? Su questo infatti volevo dirti due cose, una anche sentire il parere di Flavia. La prima è in questa famosa intervista che la Raggi ha dato ieri al Corriere, che ha fatto questa dichiarazione, quasi, la mia impressione è, senza rendersi conto di quanto fuori dal mondo fosse. Cioè, da Grillo ha avuto un SM di sostegno. Ma che cosa significa? Cioè, a parte che Grillo appunto ha fatto il famoso passo laterale, passo indietro, ma se la sua legittimazione è un SMS di Grillo, e poi ricordiamo che le primarie che hanno portato alla candidatura di Virginia Raggi sono stati un test tra 3.000 militanti sul web, quindi, come dicevi, un movimento oscuro. E l'altra cosa che... Ma quella è la cosa più importante, l'SMS di Grillo è proprio paf, è il 100% della legittimità politica. Ah, è come, non so, una laurea, è una cosa meravigliosa, io penso, quando l'hai ricevuto. Però a Flavio... Io non ho mai ricevuto un SMS di Grillo. Neanch'io. Mai. Però non lo riceverò mai, penso. A Flavia in particolare volevo chiedere, perché lei giustamente, senza neanche che io glielo chiedessi, diceva il tema è quello del mentire. Ricordiamo, mi aveva fatto molta impressione all'epoca l'impeachment fallito di Clinton, ma lui, quando ci fu la famosa storia con Monica Lewinsky, ma il problema non era tanto che lui avesse avuto questa storia, chiamiamola così, con Monica Lewinsky, ma il fatto che avesse, a domanda diretta, avesse mentito: io non ho avuto una storia con la mia stagista. E quindi proprio il nodo della menzogna. Tu menzionavi anche il fatto di essere, hai detto, imbecilli, stupidi, cretini. Io dico stupidi proprio, nel senso che a me non, e appunto chiedo a Flavia, non convince questa cosa del ecco l'inesperienza porta a questo. Cioè, più che inesperienza sembra proprio che ci siano degli errori di valutazione, come se non fossero... Allora, una persona che viene eletta sindaco di Roma con il voto del 60% della città, il giorno dopo si mette davanti allo specchio e dice io rispondo ai romani, mi hanno eletto milioni di romani, mentre invece non c'è stato, a mio giudizio, questo salto di qualità. Qua si continua a rispondere a Beppe Grillo, al movimento, alla taverna, al direttorio, anche appunto nelle dichiarazioni, nelle interviste. La principale preoccupazione è quella dell'unità del movimento, del non dare idea che il movimento è diviso, ma qua è un'altra categoria, qua non è che stiamo parlando di un congresso di partito, stiamo parlando del governo di una città. La Raggi avrebbe dovuto prendere le sue decisioni immaginando che ne rispondeva alla città e non a Beppe Grillo. Detto questo, l'SMS di Grillo è diciamo l'equivalente, non so, negli anni del PC, se qualcuno avesse ricevuto un SMS di Stalin, probabilmente ne avrebbe parlato nella stessa maniera, oppure non so, nell'area di destra un SMS di Goldwater. Diciamo, ognuno ci ha avuto il suo capo carismatico, certo. I grillini hanno questa idea assolutamente gerarchico-carismatica del loro mondo, e per loro, ecco, dire un SMS di Grillo dice tutto. È una medaglia. E l'altra cosa che mi ha fatto impressione è sentire le dichiarazioni di tutti i dimissionari, compresi i vertici dell'ATAC e dell'AMA, che sono le due grandi emergenze di Roma, no? Il trasporto pubblico e l'immondizia, dire noi abbiamo cercato l'assessore, abbiamo cercato di stabilire dei contatti. Tra l'altro la stessa cosa sta dicendo l'assessore all'urbanistica, che forse potrebbe presto lasciare anche lui. Quindi queste sono proprio, come dicevi tu, ma cose basilari. Cioè, nel giorno in cui ti insedi stabilisci subito dei contatti diretti con le persone che devono aiutarti a risolvere i più grandi problemi di Roma. Invece no. Sì, ma qua no, appunto, non è che si tratta di aver governato una città, si tratta, non so, di aver gestito un piccolo ufficio, una famiglia, insomma. Sono, diciamo, regole basiche, basiche dei comportamenti. Detto questo, sapere quello che succede veramente a Roma, io che di Roma sono, vi assicuro che è estremamente difficile. Cioè, tra le tesi dei dimissionari, le tesi della sindaca e le tesi dei magistrati è tutto quanto un pasticcio, perché le dinamiche autentiche di questa città non vengono mai fuori. Qua è ovvio che si è combattuta e si sta combattendo una furibonda lotta di potere, di cui il culmine è un sindaco piuttosto sprovveduto, che naviga un po' a vista tra un'emergenza e l'altra, e che non si sa districare, e non è aiutato dai suoi, perché fino all'altro ieri c'era. Adesso è possibile immaginare che la Raggi non avesse avvisato Grillo che il suo assessore bandiera, quello che prometteva la città pulita entro il 20 agosto, era sotto indagine? Ma io, insomma, lo ritengo piuttosto improbabile, proprio per il dato, l'elemento, diciamo, di rapporto carismatico e gerarchico che c'è in quel movimento. Poi è costretto a negarlo, perché se dicesse l'avevo detto a Grillo succederebbe il doppio del putiferio. Certo. Quindi capire con esattezza che cosa succede, secondo me, è molto complicato, come in tutte quante le dinamiche romane. Sono 20 anni che in questa città non si capisce bene come vengono prese certe decisioni, come vengono scelti certi personaggi, come si fa carriera all'interno del comune di Roma. E l'elezione della Raggi è frutto di questa roba qua, cioè i romani l'hanno votato perché erano stufi di questa roba. Certo. Purtroppo sono meccanismi che si replicano a prescindere dalle persone. Ci fermiamo solo un attimo, abbiate pazienza un attimo tutti e due per le informazioni sul traffico, e poi torniamo su questi due argomenti principali di oggi. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta "24 mattino". Il movimento non ha mai fatto sconti a nessuno, neanche al suo interno, anzi soprattutto al suo interno. Quindi stiano sereni i nostri detrattori, che in questo momento pensano di poterci azzoppare con questo caso. Ecco, questo era Luigi Di Maio, che parlava all'inizio della crisi romana. E su questo vorrei chiedere a Vincino, perché è vero che dopo il terremoto fare satira è diventato difficile. Lui dice: non posso uscire di casa, devo nascondermi perché c'è un odio intorno a me. fare satira però forse sulla politica, non naturalmente solo sul Movimento 5 Stelle, perché se apriamo il capitolo centrodestra e centrosinistra credo ci sia molto materiale per voi che fate satira, ma ecco su queste figure del Movimento 5 Stelle, da una parte Di Maio e dall'altra Di Battista, le presunte rivalità, è materiale buono per una satira? No, assolutamente, c'è una lotta al potere là, è enorme. Poi Di Maio è proprio un piccolo opportunista politico, è un personaggio di Alberto Sordi, non certo, è uno che si è trovato per culo in una certa posizione e quindi messo là così da un momento all'altro senza proprio quasi nessun merito, perché là nessuno ha merito, l'unico merito ce l'ha Grillo, i voti li ha presi Grillo con quella sua forsennata campagna con la nuotata in tutta Italia, i voti li ha presi Grillo, e in realtà e loro hanno fatto un buon gioco di opposizione in Parlamento, al Senato, d'altro canto fare opposizione è molto più facile, no? E poi però niente, quando nelle occasioni di governo si trovano totalmente impreparati, ma proprio questa è un'insipienza che non mi aspettavo così. Cioè, stai per, come dire, un minimo di programma di cosa te lo fai, un minimo di come muoverti nel primo anno, no? Ci pensi, te lo organizzi, fai riunione appose, magari ci fosse stato il direttivo da Milano, là, come si chiama? Quelli del blog là, che avessero un poco badato e organizzato. Casaleggio. Invece li addestrano solo a essere bravi in televisione, ma non li addestrano a governare. Come dire, è un disastro. Insomma, chi si chiama il disastro se lo... Quindi a Flavia vorrei chiedere, perché tutti stanno un po' dicendo Roma era il grande banco di prova, adesso se fallisce Roma e il Movimento 5 Stelle, che secondo i sondaggi era addirittura diventato il primo partito italiano superando il PD, in realtà perderà un sacco di voti. Poi aggiungiamo che gli ultimissimi sondaggi, in realtà questa perdita di voti, anche alla luce di quello che sta succedendo a Roma, che ormai sta succedendo da 3 giorni, non c'è. Però voi, tu Flavia, cosa prevedi? Che ci sarà effettivamente un contraccolpo, questa incoerenza, questa mancanza di queste promesse fallite peseranno sull'elettorato? Ma guarda, Roma prima della Raggi ne ha viste di ogni, capito? Quindi la vicenda Raggi, se inquadrata nel contesto romano, nella vicenda di Marino, prima in quella di Alemanno, nelle inchieste di Mafia Capitale, nei consiglieri che vanno in comune a far dimettere il sindaco, eccetera, non è per un romano medio una vicenda di serie A ancora al momento. La Raggi, secondo me, può franare a Roma, se frana su una cosa pratica, su una cosa concreta, non su questo genere di vicende di palazzo, perché le vicende di palazzo sono proprio disinteressanti per i romani ormai, ne hanno viste tantissime. Il successo della Raggi non è legato, in parte ha ragione Vincino, c'è Grillo, ma c'è anche il fallimento degli altri, così clamoroso, catastrofico, enorme, che alla fine dici vabbè, proviamo pure questi, l'abbiamo provati tutti, non ha funzionato nessuno, proviamo pure questi. Quindi la Raggi può cadere su qualcosa di pratico, su un'emergenza affrontata male, su qualche cosa che qualche errore amministrativo di serie A. Al momento, siccome stanno abbastanza fermi, questa giunta non è che ha fatto grandi movimenti o che ha annunciato grandi cose, sta tutto fermo. E sul fatto che comunque ci sia appunto questa possibilità, poi di Maio addirittura si sentiva già premier in pectore, questi personaggi appunto che stanno dietro, secondo voi come si muoveranno adesso? Perché dovranno prendere una posizione chiara. Ma sai, a differenza dei Pizzarotti del sindaco di una piccola città, la Raggi non la possono scaricare, l'hanno scelta loro sostanzialmente, rispetto anche ad altri consiglieri comunali del 5 Stelle che avevano più esperienza e che erano anche più popolari in città. Quindi i destini della Raggi coincidono esattamente con quelli del gruppo dirigente del 5 Stelle, e vedremo un copione differente da quello che abbiamo visto in passato. Poi non dimentichiamoci che qua la mancanza grande, questi sono i primi passi del Movimento 5 Stelle senza Casaleggio, che con tutte le sue oscurità e ambiguità comunque aveva una sua intelligenza politica, grandi errori non gliela ha mai fatti fare, e ora secondo me senza quel tipo di riferimento loro navigano un po' a vista, ma non potranno scaricare la Raggi come hanno scaricato Pizzarotti. Infatti oggi proprio sul Corriere c'è un retroscena di Emanuele Buzzi intitolato La rabbia di Casaleggio, un summit per chiedere l'uscita della giunta. E un'ultima cosa che volevo chiedere a tutti e due, perché è un po', insomma, un tema di, secondo me, su cui tutti e due potete dare un autorevole parere. E questo, oltre alle vignette molto forti, ci sono anche i titoli molto forti, principalmente per esempio quelli di Libero e del Giornale. E su un'altra donna che è nel mirino di molti in questi da ieri, da quando ha perso il suo partito, ha perso le elezioni in Mecklenburgo, parliamo di Angela Merkel della CDU, e il Libero oggi titola, e scusatemi il francesismo, il tonfo della culona. Questo è il titolo. Quindi volevo un po' chiedervi, perché io, vabbè, da donna forse, ma anche da femminista, che per me non è un insulto, trovo questi titoli, come ricorderete anche altri modi di definire Angela Merkel, così, se non altro di cattivo gusto. E siccome non è nemmeno satira, ma è il titolo di un giornale, di una pagina che non è satira, la pagina 3, volevo un po', insomma, sentire la vostra opinione, di Flavia, che so che tra l'altro ha anche lei un passato di giusta difesa e lotta per i diritti delle donne, poi di Vincino, come, insomma, dal suo punto di vista, che anche le parole naturalmente possono essere usate per fare satira. Allora, ma i titoli di Libero, insomma, Libero si contraddistingue per questo tipo di titoli, diciamoci, ormai siamo mitridatizzati, quindi questa parola culona l'hanno usata in tantissime circostanze. La prima volta siamo tutti quanti saltati per aria, la seconda già un po' meno, e adesso ormai è ordinaria amministrazione. Quando si parla di Merkel, Libero dice culona. Francamente c'è poco da commentare, mi sembra, come analisi politica proposta da un giornale che comunque ha una sua fetta di lettori nel centrodestra, mi sembra un po' così di basso profilo, trash, però contenti loro. E Vincino cosa dice? No, non commento i titoli di Libero, dai, l'ha sempre avuto, peraltro non è che all'estero la stampa popolare usa linguaggi e titoli, come dire, non è, la stampa popolare vive su queste cose qua, vive sul titolo, chissà chi lo comprerebbe mai Libero, dai, per il commento, no, e allora quindi devo mettere titoli terribili per cui... Ma sai, non so, un po' a me è sempre sembrato che in Italia, appunto, mentre in Germania esiste la Bild, tipico giornale popolare, o tutti i tabloid in Inghilterra, noi non ne abbiamo di fatto uno, quindi mi spiace da giornalista che poi si scada così. Io ringrazio tantissimo tutti e due, siete stati pazienti con me che non ho tanta esperienza in questa prima mezz'ora della trasmissione di Alessandro. Una buona giornata a tutti e due e magari, insomma, ci risentiremo. Grazie ancora da Giulia. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Buongiorno, la signora oggi sarà un po' delusa perché non c'è Alessandro, ci sono io, Giulia Crivelli. Buongiorno ancora a tutti, buon martedì. Alessandro ha avuto un imprevisto e speriamo torni il più presto possibile, quindi è proprio una sostituzione assolutamente temporanea. Tranquillizzo tutti e tutti quelli che chiedono di Alessandro, appunto, tornerà proprio appena possibile. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori che hanno già mandato dei messaggi al 349-238-6666. Dalle 6:30 alle 7 abbiamo parlato con Flavia Perina e Vincino un po' della questione di oggi, che è quella dei 5 Stelle, e agli ascoltatori che protestano un po' perché i pareri sono sembrati di parte, diciamo che, come vedremo, è il titolo di tutti i principali giornali. Cercheremo di essere il più obiettivi possibile, però per spiegare perché diamo così tanto peso alla vicenda di Roma e non, per esempio, come ci stimola a fare un ascoltatore, parlare anche di quello che invece il Movimento 5 Stelle sta facendo a Torino con il sindaco Appendino, è perché ci sono davvero, saltano all'occhio queste anomalie di un movimento che si presentava come veramente innovatore, e da questi primi segnali così innovatore non sembra. Io le parole migliori per dire questo le ho trovate sabato sulla Repubblica, nella Maca di Serra, dove scriveva Se uno dice farò quel poco che posso, quando sbaglia si è disposti a chiudere un occhio, ma se dice fatevi tutti da parte che arrivo io e sistemo tutto, quando inciampa il pernacchio è uno tsunami. Sono le regole antichissime della commedia ed è strano che Grillo non le abbia tenute presenti nella costruzione della sua trama politica. E ripeto, è un po' un dato di fatto questo, che a fronte di proclami di trasparenza e di coerenza i primi segnali non sono proprio aderenti a quei proclami. Ma vediamo sul Corriere della Sera, quindi Muraro e 5 Stelle sapevano, questo è il virgolettato che viene usato perché è stato ribadito ieri dall'ex capo di gabinetto della Raggi, dimissionario giovedì scorso. Il commento di Giovanni Bianconi, nascondersi dietro le parole. Poi vi segnalo che la fotonotizia è invece dedicata a quella che viene definita la sfida di Rio, perché domani ci sarà la cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici che poi dureranno fino al 18 di settembre a Rio de Janeiro, naturalmente. La Repubblica, assessora indagata, Raggi sapeva, e c'è anche questo riferimento al fatto che non l'abbiamo sentito nell'audio perché non era perfetto, però una delle dichiarazioni di Virginia Raggi è che i vertici sapevano, quindi quella famosa regola che quando si riceve un avviso di garanzia deve essere un esponente del Movimento 5 Stelle riceve per disgrazia un avviso di garanzia, deve immediatamente avvisare i vertici. Lei dice: io l'avevo fatto. La fotonotizia di Repubblica però è dedicata al G20 che si è concluso ieri in Cina. Sapete, questo gigantesco vertice, o meglio in realtà vi partecipavano appunto tra virgolette solo i 20 paesi più potenti del mondo, però aveva proporzioni enormi e le cifre fatte prima parlavano di una cifra per allestirlo doppia rispetto a quella che è servita per allestire i giochi olimpici, che sommati a quelli paralimpici sono durati 4 settimane. Qui sono stati 2 giorni e mezzo di intensi incontri, ma tant'è, è già finito. E il titolo scelto dalla Repubblica è Obama-Putin, il ritorno della guerra fredda, perché il tanto atteso faccia a faccia tra il presidente russo e il presidente americano è sì, c'è stato, è stato lungo, ma non ci sono stati poi progressi concreti sulle grandi questioni, che sono soprattutto quelle in questo momento della guerra in Siria. I rispettivi ministri degli esteri si rincontreranno nei prossimi giorni, è già stato annunciato, però appunto il faccia a faccia si è concluso con un nulla di fatto. Il Messaggero, Raggi, Muraro, anche il Movimento 5 Stelle sapeva. E un altro titolo in prima pagina, sapete che il Messaggero sta seguendo anche molto da vicino la questione della riforma della pubblica amministrazione e anche gli ennesimi ritocchi alla riforma delle pensioni. Un titolo in prima pagina, la 14ª ha oltre 1 milione di pensionati in più. Il Fatto Quotidiano, come forse chi ha seguito la prima parte ricorda, questa vignetta di Vauro che fa un po' la parodia di quella di Charlie Hebdo. Non sto a descrivervela, anche perché, come ha detto Vincino, ha poco senso descrivere una vignetta, bisogna guardarla. Vi segnalo invece un articolo che poi trovate a pagina 7, intitolato Perotti sbugiarda Gutgeld sui conti della riforma, e qui va un po' spiegato questo titolo, perché sabato è apparsa sul Corriere una intervista a Roberto Perotti, che è l'ex commissario alla Spending Review. Si è poi dimesso dicendo che sostanzialmente non riusciva a fare il suo lavoro e quindi preferiva appunto dimettersi. Mi avevano colpito in particolare due domande fatte da Federico Fubini. Diceva: dove sono i tagli seri da fare nello Stato? E Perotti rispondeva: non esistono jackpot facili, ma per esempio i sussidi alle imprese valgono miliardi e miliardi, lo Stato non ne ha ancora un censimento, pensi un po'. E un dettaglio: a gennaio hanno persino aumentato i sussidi al cinema da 200 a 500 milioni e il cinema italiano è il più sussidiato al mondo per euro di valore aggiunto prodotto. Ma perché un povero disoccupato del sud deve sussidiare i cinepanettoni? E l'ultimissima domanda era: al referendum come voterà il referendum sulla riforma costituzionale? Però ti risponde: voto sì, abolire il bicameralismo è importante, ma non è vero che così si taglieranno 500 milioni di costi della politica, perché in quella cifra sono inclusi 350 delle province che erano già state abolite, anche se citando Alessandro, che fa sempre la conta di quante settimane, a che quota di settimane decisive siamo per l'abolizione delle province, che di fatto è ancora solo sulla carta. Ecco, appunto, questo va contestato. Da qui la reazione di Gutkeld, altro commissario e consulente economico del governo, che ieri ha scritto una lettera al Corriere. Non hanno deciso di intervistarlo, né lui forse si è fatto intervistare, ha preferito dare una versione senza contraddittorio, quindi una lettera dove cercava di smentire alcuni dei punti messi in evidenza da Perotti, e in particolare appunto sul fatto del cinema sussidiato. Diceva il professor Perotti: confonde i cinepanettoni sussidiati nel passato con un sistema diverso di finanziamento del cinema che esiste in tutti i principali paesi del mondo, che è il tax credit. Questo era sul Corriere di ieri, trovate poi tutto online, e a chi legge, insomma, giudicare quale delle due versioni, quella di Perotti ha più numeri di quella di Gutkeld, è quella più verosimile, più, anche se naturalmente non c'è certezza, perché poi i numeri, come sappiamo, devono essere letti, devono essere interpretati, purtroppo solo apparentemente parlano da soli. Ma torniamo alle prime pagine dei giornali di oggi. La Stampa: Roma, gelo tra Raggi e vertici grillini, quindi anche qui una pioggia di commenti e di analisi. Anche il Buongiorno di Gramellini è dedicato alla vicenda, in questo caso però si parla di San Marco, questo nuovo assessore al bilancio scelto da Virginia Raggi, insomma anche qui con toni molto polemici su non solo le scelte sbagliate fatte in passato, ma anche le sostituzioni che Virginia Raggi sta facendo per colmare quelle caselle che si sono vuotate nella sua giunta e ai vertici delle municipalità. La fotonotizia però è secondo me bellissima, ed è proprio un close up di un panda. Si vede il praticamente solo la parte bianca del muso del panda e gli occhi, e la notizia, come avete già sentito, io l'ho sentita ieri proprio qui ai GR di Radio 24, quelli del tardo pomeriggio e della sera, che per molti anni considerato una specie in pericolo, tanto che il panda era diventato il simbolo, è ancora il simbolo del WWF, che è forse la più conosciuta organizzazione ambientalista al mondo, adesso, visti i dati, visto gli sforzi che si sono fatti con i parchi naturali, il panda gigante è salvo. Ce ne sono però ancora tantissime di specie minacciate dall'estinzione, quasi sempre per colpa dell'uomo, o proprio per le normali, diciamo così, pratiche di caccia, oppure perché viene distrutto l'ambiente naturale in cui vivono certi animali. Il manifesto: acqua in bocca, e la foto per spiegare questo titolo, come sempre un titolo allusivo, una specie di gioco di parole, o che comunque appunto deve richiamare, dove le parole sono spesso funzionali alla foto. C'è Virginia Raggi che in giunta, in quell'aula del Campidoglio che abbiamo imparato a conoscere, sussurra qualcosa alla Muraro, addirittura si mette la mano davanti alla bocca, e naturalmente il riferimento è al fatto che la Raggi sapesse dell'avviso di garanzia, l'avesse secondo lei addirittura anche comunicato ai vertici del suo partito, come impongono le regole del Movimento 5 Stelle, e però non meno di due giorni fa al Corriere della Sera, anzi un giorno fa, ieri, aveva dichiarato che no, non esisteva questo avviso di garanzia. L'Unità: Raggi di Prima Repubblica, e naturalmente l'Unità non perde occasione per appunto fare un titolo molto forte su questa vicenda, però fa anche molta autocritica in un certo senso, perché l'Unità è comunque il giornale di partito del Partito Democratico, dove la maggioranza, sappiamo, è quella del segretario nonché premier Renzi, ma c'è anche una minoranza importante. E l'altra notizia politica di ieri è questa presentazione da parte di Massimo D'Alema dei comitati per il no, per promuovere il no al voto al referendum sulla Corte Costituzionale. La vignetta più grande del solito, tra l'altro, di Sergio Staino sulla prima pagina dell'Unità, vede un D'Alema con un fucile in mano, seduto a una scrivania con davanti una scatola di proiettili no, alle sue spalle ci sono i leader che evidentemente, secondo Sergio Staino, lui ha già fatto fuori, cioè Occhetto, Prodi e Veltroni. Manca solo una casella da riempire, e quella casella, in un fumetto che esce idealmente dalla testa di D'Alema armato, è naturalmente la testa di Matteo Renzi. Ci fermiamo però un attimo per una breve pausa e poi vediamo le altre prime pagine dei giornali di oggi. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Alessandro tornerà appena possibile, ha avuto un imprevisto, ma garantisco a tutti i lettori e gli ascoltatori che stanno scrivendo, è appunto proprio solo una soluzione assolutamente momentanea questa di sentire la mia voce anziché la sua. Ringrazio tutti come sempre, sia per i messaggi positivi che per quelli di critica, e in particolare molti contestano un po' questo esserci concentrati sulle vicende del Movimento 5 Stelle, è che davvero è l'apertura di quasi tutti i giornali. Dico quasi perché ora che siamo arrivati a il giornale ha in realtà un'apertura diversa. Merkel, Renzi, Hollande da suonatori a suonati. Il riferimento naturalmente è alle difficoltà che sta avendo il premier Renzi, alle quelle che sta avendo la cancelliera Merkel, che domenica ha avuto questo test delle elezioni amministrative nel Mecklenburgo, che è un piccolo land della Germania del Nord, ex Germania Est, ma è proprio dove è nata Angela Merkel, quindi aveva anche un valore simbolico. Il suo partito ha perso la CDU circa 4 punti e quindi è stato un test che sicuramente non positivo per lei, per la cancelliera, che a questo punto alcuni pensano addirittura che potrebbe non ricandidarsi alle prossime elezioni politiche. E Hollande, che a sua volta nei sondaggi è il premier meno amato degli ultimi anni. La vignetta, tra l'altro, ve la segnalo perché è di Forattini. Da tempo non vedevo una vignetta di Forattini e forse con oggi ricomincia a collaborare con il giornale. Di spalla c'è la vicenda Raggi e il commento è di Alessandro Sallusti, il direttore del giornale. Mi ha molto colpito negativamente, devo dire, le ultime parole. Il titolo è in linea con tanti altri commenti, cioè a Roma si schianta la supposta superiorità grillina. E però le ultime righe sono queste. I grillini, gli esponenti del Movimento 5 Stelle devono cambiare postura e linguaggio, via quei sorrisetti allusivi da primi della classe, che tirino su le maniche e immergano le mani nella melma della capitale. Come disse il grande Rino Formica, anche qui scusatemi ma cito testualmente, aperte virgolette, la politica è sangue e merda, chiuse virgolette. Quindi fuori, educande, signorini, pretini e perditempo. E sentite queste ultime 6 righe. E anche belle signore e signorine dalla lacrima facile e dalla retorica dozzinale. Per governare Roma servono uomini, magari in gonnella, ma uomini. Sarà Alessandro Sallusti sulla prima pagina del giornale. Anche Libero sceglie di titolare sulla sconfitta dei leader, in particolare di Angela Merkel, silurata la Merkel. I tedeschi sono insofferenti, la CDU sta pensando di accantonare la cancelliera, quello che dicevamo appunto era quasi scontato che fosse lei la candidata della CDU, il suo partito, i cristiano-democratici tedeschi, per le prossime elezioni. Adesso con questo test del Mecklenburgo si riaprirà probabilmente una discussione interna. Scrive sempre Libero, ha riempito la Germania di immigrati e non sa come gestirli. Ignora che mezza Europa non ne può più della sua Unione Europea e sottovaluta la Brexit. Vi segnalo anche la fotonotizia curiosa con il racconto che poi fa Franco Bechis di questa vicenda. Totti e Signora non guadagnano più. E forse ricorderete qualche giorno fa sul Corriere la vicenda di Gigi D'Alessio, che per via di investimenti e partner economici, di business sbagliati, avrebbe molti milioni di euro di debiti, anche se poi lui ha smentito la versione del Corriere, ammettendo però che in effetti debiti ingenti li ha, quindi poi VIP in crisi, a cui poi è stata dedicata anche una puntata di Ma cos'è quest'estate, e pare che appunto anche Francesco Totti e Ilari Blasi, che sicuramente uno con la sua attività di calciatore, l'altra con la sua attività di showgirl, guadagni ingenti ne avevano avuti, adesso però forse le cose non vanno più così bene neanche per loro. Avvenire sceglie di titolare sulla, abbiamo visto, la chiusura del G20, crescita per tutti, il G20 ora ci prova. E però viene anche fatto un accenno agli ultimissimi dati dell'Istat, l'istituto di statistica, che dice la ripresa in Italia si è interrotta, potremmo aggiungere se c'è mai stata, comunque quel poco che c'era si è interrotta. Poi un accenno in prima pagina anche alla vicenda di Roma. Roma, Raggi e Muraro, sapevamo dell'inchiesta, il riferimento è appunto a quello che hanno detto il sindaco di Roma e la sua assessora all'ambiente ieri in commissione Ecomafie. il giorno i grillini sapevano, la fotonotizia però è dedicata al terremoto, perché ahimè sembra già quasi che sia passato molto in secondo piano il terremoto che appena 10 giorni fa ha colpito il centro Italia. Gli scrocconi del sisma, questo è il titolo della fotonotizia, perché si è scoperto che nelle mense, soprattutto in quelle più grandi, cioè di Amatrice e dei paesi vicini, entrano anche centinaia di abusivi, e quindi è stato predisposto un vero e proprio pass che dà diritto appunto a entrare in queste mense. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che ovviamente è dedicata alla vittoria di ieri della nazionale, la nuova nazionale dell'allenatore Giampiero Ventura, che ha vinto 3-1 contro la squadra di Israele. Quello che però mi colpisce, non pretenderei magari che fosse tutto in prima pagina, abbiamo detto prima delle io le ho chiamate le i giochi paraolimpici, un ascoltatore giustamente mi corregge e dice che la dizione corretta è paralimpici. Ecco, per trovare un po' di cronaca su questo evento che inizia dopo domani, perché domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione, dobbiamo arrivare alla pagina 29 della Gazzetta dello Sport. Vi torniamo magari un attimo sulle pagine interne. Qualcuno forse si chiederà perché, a differenza di quello che faccio normalmente, non ho citato la prima pagina del Sole 24 Ore o gli articoli interni. Lascio questo onore a Mauro Meazza, che ci raggiungerà come ogni mattina tra poco. Ma vediamo invece dalle pagine interne del Corriere della Sera il racconto che Guido Santevecchi, inviato in Cina per il Corriere della Sera, ci racconta delle altre elezioni importanti che hanno dato dei segnali importanti, quelle che si sono tenute a Hong Kong. L'articolo è intitolato La rivincita dei giovani di Hong Kong. La ricorderete forse quella che era stata definita la rivolta degli ombrelli, perché i più giovani che protestavano contro alcune norme volute dal governo cinese, di cui Hong Kong fa parte da quando è stato restituito, era un protettorato della Gran Bretagna, è stato restituito nel 1999 e negli anni si sono alternati questi movimenti. Adesso la richiesta non è nuova, è quella di riavere l'indipendenza, questa volta non dal Regno Unito, ma dal Commonwealth, ma da Pechino. Un articolo interessantissimo, secondo me. Premetto che sono figlia di medico e che per tutta la vita ho sentito parlare, mio padre ha fatto il medico ospedaliero tutta la vita, ho sentito parlare di sanità, delle questioni importanti, di quanto sia importante, di quanto sarebbe importante riformarla in alcuni aspetti, e il Corriere ci racconta questa vicenda di Marco Cicardi, che è un medico dell'ospedale Sacco, che ha osato, tra virgolette, criticare la riforma Maroni, che è l'ultima riforma fatta dalla Regione Lombardia sulla sanità, ed è stato rimosso dal suo incarico. Queste critiche erano avvenute proprio in un'intervista al Corriere. La cronaca ce la fa Simona Ravizza, e poi Gian Giacomo Schiavi pubblica il commento che si intitola Così non si aiuta la buona sanità, e perché, dice Gian Giacomo Schiavi, con un po' di equilibrio si potrebbe parlare di questa riforma, che come tutte le riforme inevitabilmente, anzi potremmo dire come tutte le leggi, avrà i suoi punti di forza ma i punti di debolezza, e ascoltare i pareri dei medici, cioè di chi poi mette in pratica la riforma, forse sarebbe più utile che non rimuoverli. Però se Mauro è già collegato, possiamo già collegarci con lui, dargli il buongiorno e chiedergli di appunto lasciargli l'onore di raccontarci un po' cosa si può trovare oggi sul Sole 24 Ore. Buongiorno Giulia, buongiorno. È un piacere, guarda, è un piacere ascoltarti, è un piacere anche segnalarti la overcapacity che forse non ti aveva fin qui turbato, ma parliamo di acciaio e di G20, perché devi sapere che in Cina, come riferiamo oggi a pagina 3, c'è una sovrapproduzione, questo vuol dire overcapacity, lo leggo su Sole 24 Ore, però per la prima volta i cinesi lo ammettono, e quindi già il fatto di ammetterlo è un passo avanti, perché fino adesso erano andati, avevano proseguito per la loro strada dando acciaio un po' in tutto il mondo. Chiaramente questa sovracapacità metteva in difficoltà tutti gli altri, noi compresi. Quindi parliamo di G20, ma parliamo anche di molte altre cose. Ho sentito che ti sei occupata del sisma, allora ho due cosucce da dire. L'una riguarda le misure che si stanno predisponendo, il piano, come sai, Casa Italia, certo, e anche ulteriori sconti, detrazioni fiscali, prolungamenti di detrazioni esistenti per gli interventi antisismici. Bene, ne riferiamo nelle prime pagine. Poi però vorrei dire una cosuccia un po' seccante. Allora, è arrivata la sospensione dei versamenti tributari. Dorso norme e tributi. Naturalmente, su norme e tributi che tu, anche tu devi leggere religiosamente, certo, cara Giulia, non facciamo sconti a nessuno. Ecco, però è stata fissata al 20 di dicembre. Allora io mi permetterei, e anche un corsivo proprio su norme e tributi si permette di dirlo, forse il 20 dicembre, come dire, ottimista. Noi ci auguriamo che tutte le cose siano risolte anche prima del 20 dicembre, ma forse chiedere di andare a pagare l'IVA o altre cose il 20 dicembre è un po' prestino per quello che abbiamo potuto vedere fin qui. Va bene, chiuso questo aspetto, invece ti segnalo, è sempre in preparazione la famosa legge di stabilità. Mm-hmm. Oggi facciamo un riepilogo delle misure di cui si sta parlando, tra cui sostegno alla cosiddetta industria 4.0, cioè questi internet delle cose, e poi il MOSE, sai, il MOSE di Venezia. Guarda, ho detto, se non l'avessi citato ti avrei spinto a farlo, perché è un'altra vicenda stupenda. Il MOSE, guarda, tra 2 anni è pronto, non so se adesso possiamo far partire il contatore, settimana decisiva, esatto, mancano tot settimane decisive, però ti spiega tutto Jacopo Giliberto da par suo nelle pagine di Imprese e Territori, che scrupolosamente comunque vanno sempre lette. E che tra l'altro Jacopo è veneziano, quindi... Tra l'altro conosce bene il territorio. Bene, molte altre cose avrei da dirti, ma come sai incombe il mio abituale saluto. Certo. E allora, come da tradizione, cara Giulia, cari ascoltatori, traffico! Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... "24 Mattino". Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, tranquillizzo tutti gli ascoltatori che stanno scrivendo messaggi al 348-349-238-6666, Alessandro tornerà appena possibile. E tra l'altro anche oggi tanti messaggi belli, insomma, che mi rendono felice, perché sono messaggi positivi, anche qualcuno negativo. Quelli che mi hanno colpito di più oggi è quello che mi dice che leggo i giornali come una suora, e vabbè, e un altro che invece mi chiama gattara maledetta, e vabbè, anche qua gattara sicuramente, maledetta non so perché. In ogni caso, insomma, davvero è comunque molto interessante per me, lo dico sempre, veramente lo penso fino in fondo, avere questo contatto diretto, sapere l'effetto che facciamo noi giornalisti, specie noi che non siamo, non abbiamo una lunga esperienza in radio, ma siamo più abituati a scrivere per la carta, che effetto appunto abbiamo su chi ci ascolta e quindi magari anche su chi ci legge. Abbiamo detto che il terremoto è un po' purtroppo sparito dalle prime pagine dei giornali e anche da quelle interne, ahimè. Abbiamo visto sul Sole 24 Ore 2 approfondimenti, uno su questo piano Caso Italia che deve prendere forma e l'altro sulle misure fiscali. La Repubblica invece si concentra con Paolo Brera, pagina 14, su tutte quelle aziende che sono che stanno comunque ripartendo. E c'è anche il caso di Accumoli, che è un altro dei comuni molto colpiti, che sottolinea La Repubblica, non aveva il piano antisismico. Questo sappiamo, oltre al fatto di dover applicare le leggi, le misure antisismiche che rendono più sicure le case, e probabilmente le avrebbero rese capaci di resistere a un terremoto di magnitudo 6 come è stato quello del 24 di agosto. E oltre a queste misure ci sono anche, il caso esemplare abbiamo visto è il Giappone, bisogna anche fare e promuovere e spiegare dei piani di emergenza, di evacuazione quando appena si sente la scossa, si sente una scossa. Dalle pagine interne della Repubblica un altro approfondimento sul tema della cura dei tumori. Sicuramente i tumori, la cura dei tumori ha fatto molti passi avanti grazie ai soldi investiti in ricerca, all'impegno di tanti medici e ricercatori. In questi giorni, anche Alessandro ne ha parlato ieri, ci sono questi due casi di due donne, una ragazza molto giovane e una di 34 anni, che hanno scelto di non farsi curare con la medicina tradizionale e sono poi morte. È naturalmente difficilissimo stabilire quali e quanto gravi siano stati gli errori e le scelte di queste due donne. Sono intervenuti moltissimi medici. Daniela Minerva oggi sulla Repubblica prende la questione un po' in una visione un po' più ampia e spiega: dalla chirurgia alla chemio, così si battono 6 tumori su 10, oggi come oggi. 40 anni fa una diagnosi era una condanna a morte, oggi più di metà dei malati ce la fa, ma è indispensabile affrontare la cura. A proposito invece ancora del terremoto e sulla questione delle case che devono arrivare il più presto possibile, perché oltre al maltempo stanno anche scendendo di giorno in giorno le temperature in molte delle zone terremotate, quindi le tende ovviamente non sono più assolutamente idonee a fornire un temporaneo riparo a tutte le persone che hanno perso la casa, agli sfollati. E in questa, a pagina 10 del Messaggero, si spiega come possono essere queste case che saranno destinate agli sfollati del sisma e che il commissario straordinario alla ricostruzione Vasco Errani ha promesso che arriveranno non a distanza di mesi, ma a distanza di settimane, e speriamo davvero che sia così. Vi dicevo, la polemica tutta interna al Partito Democratico su chi all'interno del Partito Democratico voterà sì alla riforma costituzionale, su cui tra l'altro ieri Renzi ha fatto delle dichiarazioni sulla data: sarà probabilmente l'ultima domenica di novembre o la prima di dicembre la data in punto in cui voteremo. E però ieri è anche stata la giornata in cui Massimo D'Alema, in un cinema romano, il cinema Farnese, ha presentato i suoi comitati per il no, usando parole durissime sia sulla posizione della maggioranza del PD e quindi di Renzi, che invita a votare sì, sia in generale su quello che è diventato il PD di Renzi. Devo dire, fa onore ovviamente al giornale All'Unità, come abbiamo visto, oltre alla vignetta molto cattiva, potremmo dire, in prima pagina c'è anche un ampio resoconto di quello che ha detto ieri D'Alema al cinema Farnese. D'Alema lancia i comitati del no e così diremo addio al Partito della Nazione, che è uno dei modi sprezzanti in cui gli avversari di Renzi hanno sempre definito questo sogno, appunto, di avere un partito che prendesse, come era accaduto alle europee, ma non è più accaduto, il 40% dei voti. E sul Giorno, a questo proposito, vi segnalo un'intervista al ministro della giustizia Andrea Orlando, che quindi è, diciamo, sicuramente renziano, anche se anche qui questa parola diventa quasi un insulto a volte, anche in molti messaggi che riceviamo. Comunque Orlando dice: Massimo D'Alema sbaglia tutto, ma non farà la scissione, questa tanto spesso evocata possibile scissione all'interno del Partito Democratico, dove appunto sono evidenti le spaccature su tantissimi temi, compreso, anzi in primis, quello sulla legge costituzionale. A proposito del maltempo, L'Avvenire anche in questo caso pubblica uno schema su come potrebbero essere queste case che devono sostituire nel più breve tempo possibile le tende. Il titolo è: arriva la pioggia, via dalle tende subito. E il capo della Protezione Civile Curcio dice: dobbiamo anche accelerare gli accordi con i comuni. A proposito ancora di tragedie, anche in questo caso un po' oscurato il tema dalla cronaca degli ultimi giorni, Avvenire ci ricorda un'altra strage in mare: 15 morti, 7 caduti dal gommone a un passo dalla salvezza, mentre sono state recuperate, sempre dai mezzi della Marina Italiana, 2700 persone. Abbiamo ancora un paio di minuti. E a proposito di Paralimpiadi, che vi dicevo la Gazzetta trascura un po', trovate alcune anticipazioni solo a pagina 29, invece alle pagine 18 e 19 del Corriere della Sera, noi fuori classe paralimpici, con la storia di due atleti in particolare, una ciclista, Francesca Porcellato, che dice: quando sono in gara mi sento una farfalla, e invece una runner, Monica Contraffatta, fatto in pista da bersaglieri, qui ci sono atleti, non c'è la disabilità. Quindi un po' un invito a vedere questi giochi non come i giochi dei disabili, ma come i giochi di atleti straordinari che hanno una disabilità. Un altro bel approfondimento del Corriere, pagine 22 e 23, nei giorni scorsi si è parlato molto del successo enorme che sta avendo una scrittrice italiana, Elena Ferrante, la cui identità è un po' misteriosa all'estero, in particolare negli Stati Uniti, e l'approfondimento di Roberta Scorranese sul Corriere ci racconta come di fatto noi esportiamo un patrimonio editoriale, oltre 6.000 titoli tra fiabe e romanzi. Naturalmente sono molti richiesti classici e in cima a tutti, in cima alla lista c'è Dante, ci sono le opere di Dante, ma sono anche molti altri gli autori che vengono sempre più richiesti, pubblicati e richiesti all'estero, tanto che nel 2015 le vendite dei nostri autori all'estero sono cresciute dell'11,7%. Siamo leader nella narrativa per ragazzi e in altri settori sfidiamo la concorrenza internazionale. Ultimissima notizia a proposito del panda che non è più a rischio estinzione, a pagina 17 della Repubblica, per esempio, un approfondimento su quella che purtroppo resta la lista dell'estinzione, perché sono tanti altri gli animali in pericolo. Il più minacciato in questo momento è il gorilla. La popolazione è scesa del 70% negli ultimi 20 anni. Ultima segnalazione, un grazie a Peter Bescapè in regia, a Lorenzo Nespoli in redazione, un grazie a tutti voi ascoltatori e come vi dico ancora una volta, insomma, Alessandro Milan tornerà al più presto possibile. Dopo di noi, adesso c'è il GR e poi c'è Oscar Giannino. Ancora un buon martedì da Giulia Crivelli.